Focus Economia di Sebastiano Barisoni. E buonasera a tutti da Sebastiano Barisoni, puntata particolare di Focus Economia. Come immaginate, stiamo per trasmettere in diretta il discorso del rieletto Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano davanti alle Camere Riunite, il giuramento che sta per iniziare. Poi ascolteremo anche il discorso del Presidente della Repubblica e lo commenteremo in diretta in una giornata in cui, per inciso, i mercati hanno già festeggiato la riconferma. Onorevoli deputati, onorevoli senatori, signori delegati delle regioni, lasciatemi innanzitutto esprimere, insieme con un omaggio che in me viene da molto lontano alle istituzioni che voi rappresentate, la gratitudine che vi debbo per avermi con così largo suffragio eletto Presidente della Repubblica. È un segno di rinnovata fiducia che raccolgo comprendendone il senso, anche se sottopone a seria prova le mie forze, e apprezzo in modo particolare che mi sia venuto da tanti nuovi eletti in Parlamento che appartengono a una generazione così distante e non solo anagraficamente dalla mia. So che in tutto ciò si è riflesso qualcosa che mi tocca ancora più profondamente, e cioè la fiducia e l'affetto che ho visto in questi anni crescere verso di me e verso l'istituzione. C'è una standing ovation per il Presidente della Repubblica Napolitano, palesemente commosso in questo primo passaggio del suo intervento. Si alzano tutti in piedi i deputati e i senatori presenti. È verso l'istituzione che rappresentavo, tra grandi masse di cittadini, di italiani, uomini e donne di ogni età e di ogni regione, a cominciare da quanti ho incontrato nelle strade, nelle piazze, nei più diversi ambiti sociali e culturali, per rivivere insieme il farsi della nostra unità nazionale. Come voi tutti sapete, non prevedevo di tornare in quest'Aula per pronunciare un nuovo giuramento e messaggio da Presidente della Repubblica. Avevo già nello scorso dicembre pubblicamente dichiarato di condividere l'autorevole convinzione che la non rielezione al termine del settennato è l'alternativa che meglio si conforma al nostro modello costituzionale di Presidente della Repubblica. Avevo ugualmente messo l'accento sull'esigenza di dare un segno di normalità e continuità istituzionale con una naturale successione nell'incarico di Capo dello Stato. A queste ragioni e a quelle più strettamente personali legate all'ovvio dato dell'età, se ne sono infine sovrapposte altre. Rappresentatemi, dopo l'esito nullo di 5 votazioni in quest'Aula di Montecitorio, in un clima sempre più teso, dagli esponenti di un ampio arco di forze parlamentari e dalla quasi totalità dei presidenti delle regioni. Ed è vero che questi mi sono apparsi particolarmente sensibili alle incognite che possono percepirsi a livello delle istituzioni locali maggiormente vicine ai cittadini, benché ora alle prese con pesanti ombre di corruzione e di lassismo. Istituzioni che ascolto e rispetto, signori delegati delle regioni, in quanto portatrici di una visione non accentratrice dello Stato, già presente nel Risorgimento e da perseguire finalmente con serietà e coerenza. È emerso da tali incontri nella mattinata di sabato un drammatico allarme per il rischio ormai incombente di un avvitarsi del Parlamento in seduta comune nell'inconcludenza, nella impotenza ad adempiere il supremo compito costituzionale dell'elezione del Capo dello Stato. Di qui l'appello che ho ritenuto di non poter declinare, per quanto potesse costarmi l'accoglierlo, mosso da un senso antico e radicato di identificazione con le sorti del Paese. Interruzione per la commozione nell'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Per un secondo mandato del Presidente uscente non si era mai verificata nella storia della Repubblica, pur non essendo esclusa dal dettato costituzionale che in questo senso aveva lasciato, come si è significativamente notato, schiusa una finestra per tempi eccezionali. Ci siamo dunque ritrovati insieme in una scelta pienamente legittima, ma eccezionale, perché senza precedenti è apparso il rischio che ho appena richiamato. Senza precedenti e tanto più grave nella condizione di acuta difficoltà e perfino di emergenza che l'Italia sta vivendo in un contesto europeo e internazionale assai critico e per noi sempre più stringente. Bisognava dunque offrire al Paese e al mondo una testimonianza di consapevolezza e di coesione nazionale, di vitalità istituzionale, di volontà di dare risposte ai nostri problemi, passando di qui una ritrovata fiducia in noi stessi e una rinnovata apertura di fiducia internazionale verso l'Italia. E a questa prova che non mi sono sottratto, ma sapendo che quanto è accaduto qui nei giorni scorsi ha rappresentato il punto di arrivo di una lunga serie di omissioni e di guasti, di chiusure e di irresponsabilità. Ne propongo una rapida sintesi, una sommaria rassegna. Negli ultimi anni, a esigenze fondate e domande pressanti di riforma delle istituzioni e di rinnovamento della politica e dei partiti, che si sono intrecciate con un'acuta crisi finanziaria, con una pesante recessione, con un crescente malessere sociale, non si sono date soluzioni soddisfacenti. Hanno finito per prevalere contrapposizioni, lentezze, esitazioni circa le scelte da compiere, calcoli di convenienza, tatticismi e strumentalismi. Ecco che cosa ha condannato alla sterilità o ad esiti minimalistici i confronti tra le forze politiche e i dibattiti in Parlamento. Quel tanto di correttivo e innovativo che si riusciva a fare nel senso della riduzione dei costi della politica, della trasparenza e della moralità nella vita pubblica, è stato dunque facilmente ignorato o svalutato. E l'insoddisfazione e la protesta verso la politica, i partiti, il Parlamento sono state con facilità, ma anche con molta leggerezza, alimentate e ingigantite da campagne di opinione demolitorie, da rappresentazioni, da rappresentazioni unilaterali e indiscriminate in senso distruttivo del mondo dei politici, delle organizzazioni e delle istituzioni in cui essi si muovono. Attenzione, il vostro applauso, quest'ultimo richiamo che ho sentito di dover esprimere, non induca ad alcuna autoindulgenza. non dico solo i corresponsabili del diffondersi della corruzione nelle diverse sfere della politica e dell'amministrazione, ma nemmeno i responsabili di tanti nulla di fatto nel campo delle riforme. Imperdonabile resta la mancata riforma della legge elettorale del 2005. Ancora pochi giorni fa il presidente Gallo ha dovuto ricordare come sia rimasta ignorata la raccomandazione della Corte Costituzionale a rivedere in particolare la norma relativa all'attribuzione di un premio di maggioranza senza che sia raggiunta una soglia minima di voti o di seggi. La mancata revisione di quella legge ha prodotto una gara accanita per la conquista sul filo del rasoio di quell'abnorme premio, il cui vincitore ha finito per non riuscire a governare una simile sovrarappresentanza in Parlamento. Ed è un fatto. Non certo imprevedibile che quella legge ha provocato un risultato elettorale di difficile governabilità e suscitato nuovamente frustrazione tra i cittadini per non aver potuto scegliere gli eletti. Non meno imperdonabile resta il nulla di fatto in materia di sia pur limitate e mirate riforme della seconda parte della Costituzione, faticosamente concordate e poi affossate, e peraltro mai giunte a infrangere il tabù del bicameralismo paritario. Molto si potrebbe aggiungere, ma mi fermo qui perché su quei temi specifici ho speso tutti i possibili sforzi di persuasione, vanificati dalla sordità di forze politiche che pure mi hanno ora chiamato ad assumere un ulteriore carico di responsabilità per far uscire le istituzioni da uno stallo fatale, ma ho il dovere di essere franco. Se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al Paese. Non si può più, in nessun campo, sottrarsi al dovere della proposta, alla ricerca della soluzione praticabile, alla decisione netta e tempestiva per le riforme di cui hanno bisogno improrogabile per sopravvivere e progredire la democrazia e la società italiana. Parlando a Rimini, a una grande assemblea di giovani, nell'agosto 2011, volli rendere esplicito il filo ispiratore delle celebrazioni del 150enario della nascita del nostro Stato unitario. L'impegno a trasmettere piena coscienza di quel che l'Italia e gli italiani hanno mostrato di essere in periodi cruciali del loro passato, e delle grandi riserve di risorse umane e morali, di intelligenza e di lavoro di cui disponiamo, e aggiunsi di aver voluto così suscitare orgoglio e fiducia perché le sfide e le prove che abbiamo davanti sono più che mai ardue, profonde e di esito incerto. Questo ci dice la crisi che stiamo attraversando, crisi mondiale, crisi europea, e dentro questo quadro l'Italia con i suoi punti di forza e con le sue debolezze, con il suo bagaglio di problemi antichi e recenti, di ordine istituzionale e politico, di ordine strutturale, sociale e civile. Ecco, posso ripetere quelle parole di un anno e mezzo fa, sia per sollecitare tutti a parlare il linguaggio della verità, fuori di ogni banale distinzione e disputa tra pessimisti e ottimisti, sia per introdurre il discorso su un insieme di obiettivi in materia di riforme istituzionali e di proposte per l'avvio di un nuovo sviluppo economico più equo e sostenibile. È un discorso che, anche per ovvie ragioni di misura di questo mio messaggio, posso solo rinviare ai documenti dei due gruppi di lavoro da me istituiti il 30 marzo scorso. Documenti di cui non si può negare, se non per gusto di polemica intellettuale, la serietà e concretezza, anche perché essi hanno alle spalle elaborazioni sistematiche non solo delle istituzioni in cui operano i componenti dei due gruppi, ma anche di altre istituzioni e associazioni qualificate. Se poi si ritiene che molte delle indicazioni contenute in quei testi fossero già acquisite, vuol dire che è tempo di passare in sede politica ai fatti. Se si nota che, specie in materia istituzionale, sono state lasciate aperte diverse opzioni su vari temi, vuol dire che è tempo di fare delle scelte conclusive, e si può naturalmente andare anche oltre, se si vuole, con il contributo di tutti. Vorrei solo formulare a commento due osservazioni. La prima riguarda la necessità che al perseguimento di obiettivi essenziali di riforma dei canali di partecipazione democratica e dei partiti politici e di riforma delle istituzioni rappresentative, dei rapporti tra Parlamento e Governo, tra Stato e Regioni, si associ una forte attenzione per il rafforzamento e rinnovamento degli organi e dei poteri dello Stato. A questi sono stato molto vicino negli ultimi 7 anni e non occorre perciò che rinnovi oggi un formale omaggio, si tratti di forze armate o di forze dell'ordine, della magistratura o di quella corte che è suprema garanzia di costituzionalità delle leggi. Occorre grande attenzione di fronte a esigenze di tutela della libertà e della sicurezza da nuove articolazioni criminali e da nuove pulsioni eversive, e anche di fronte a fenomeni di tensione e disordine nei rapporti tra diversi poteri dello Stato e diverse istituzioni costituzionalmente rilevanti. Né si trascuri di reagire a disinformazioni e polemiche che colpiscono lo strumento militare, giustamente avviato a una seria riforma, ma sempre posto nello spirito della Costituzione a presidio della partecipazione italiana, anche col generoso sacrificio di non pochi nostri ragazzi, alle missioni di stabilizzazione e di pace della comunità internazionale. Lunghissimo applauso alle parole del Presidente della Repubblica Napolitano. Riguarda il valore delle proposte ampiamente sviluppate nel documento da me citato per affrontare la recessione e cogliere le opportunità che ci si presentano, per influire sulle prossime opzioni dell'Unione Europea, per creare e sostenere il lavoro, per potenziare l'istruzione e il capitale umano, per favorire la ricerca, l'innovazione e la crescita delle imprese. Nel sottolineare questi ultimi punti, osservo che su di essi mi sono fortemente impegnato in ogni sede istituzionale e occasione di confronto e continuerò a farlo. Essi sono nodi essenziali al fine di qualificare il nostro rinnovato e irrinunciabile impegno a far progredire l'Europa unita, contribuendo a definirne e rispettarne i vincoli di sostenibilità finanziaria e stabilità monetaria e insieme a rilanciarne il dinamismo e lo spirito di solidarietà e a coglierne al meglio gli insostituibili stimoli e benefici. E sono anche i nodi, innanzitutto di fronte a un angoscioso crescere della disoccupazione, quelli della creazione di lavoro e della qualità delle occasioni di lavoro, attorno a cui ruota la grande questione sociale che ormai si impone all'ordine del giorno in Italia e in Europa. È la questione della prospettiva di futuro per un'intera generazione. È la questione di un'effettiva e piena valorizzazione delle risorse e delle energie femminili. Non possiamo restare indifferenti dinanzi a costruttori di impresa e lavoratori che giungono a gesti disperati, a giovani che si perdono, a donne che vivono come inaccettabile la loro emarginazione o subalternità. Volere il cambiamento, ciascuno interpretando a suo modo i consensi espressi dagli elettori, dice poco e non porta lontano se non ci si misura su problemi come quelli che ho citato e che sono stati di recente puntualizzati in modo obiettivo, in modo non partigiano. Misurarsi su quei problemi perché diventino programma di azione del governo che deve nascere e oggetti di deliberazione del Parlamento che sta avviando la sua attività e perché diventino fulcro di nuovi comportamenti collettivi da parte di forze, in primo luogo nel mondo del lavoro e dell'impresa, che appaiono bloccate, è scritto nel documento del gruppo di lavoro, impaurite, arroccate in difesa e a disagio di fronte all'innovazione che è invece il motore dello sviluppo. Occorre un'apertura nuova, un nuovo slancio nella società, occorre un colpo di reni nel Mezzogiorno stesso per sollevare il Mezzogiorno da una spirale di arretramento e impoverimento. Il Parlamento ha di recente deliberato addirittura all'unanimità il suo contributo su provvedimenti urgenti che al governo Monti ancora in carica toccava adottare e che esso ha adottato nel solco di uno sforzo di politica economico-finanziaria ed europea che meriterà certamente un giudizio più equanime quanto più ci si allontanerà il clima dello scontro elettorale e si trarrà il bilancio del ruolo acquisito nel corso del 2012 in seno all'Unione Europea. Onorevoli deputati, onorevoli senatori, signora Presidente, apprezzo l'impegno con cui il Movimento, largamente premiato dal corpo elettorale come nuovo attore politico parlamentare, ha mostrato di volersi impegnare alla Camera e al Senato, guadagnandovi il peso e l'influenza che gli spetta. Quella è la strada di una feconda, anche se aspra, dialettica democratica e non quella avventurosa e deviante della contrapposizione tra piazza e Parlamento. Non può d'altronde non può reggere e dare frutti neppure una contrapposizione tra rete e forme di organizzazione politica quali storicamente sono da ben più di un secolo ovunque i partiti. La rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni politiche, delle decisioni pubbliche, senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi e di movimenti o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del metodo democratico. Le forze rappresentate in Parlamento, senza alcuna eccezione, debbono comunque dare ora, nella fase cruciale che l'Italia e l'Europa attraversano, il loro apporto alle decisioni da prendere per il rinnovamento del Paese, senza temere di convergere su delle soluzioni, dal momento che di recente nelle due Camere non si è temuto di votare all'unanimità. Sentendo voi tutti, onorevoli deputati e senatori, di far parte dell'istituzione parlamentare non come esponenti di una fazione, ma come depositari della volontà popolare. C'è da lavorare concretamente, con pazienza e spirito costruttivo, spendendo e acquisendo competenze, innanzitutto nelle commissioni di Camera e Senato. Permettete che ve lo dica uno che entrò qui da deputato all'età di 28 anni e portò giorno per giorno la sua pietra allo sviluppo della vita politica democratica. Lavorare in Parlamento sui problemi scottanti del Paese non è possibile se non nel confronto con un governo come interlocutore essenziale sia della maggioranza sia dell'opposizione. A 56 giorni dalle elezioni del 24-25 febbraio, dopo che ci si è dovuti dedicare all'elezione del Capo dello Stato, si deve senza indugio procedere alla formazione dell'esecutivo. Non corriamo dietro alle formule o alle definizioni di cui si chiacchiera. Al Presidente non tocca dare mandati per la formazione del governo che siano vincolati a qualsiasi prescrizione se non quella voluta dall'articolo 94 della Costituzione, un governo che abbia la maggioranza in ambedue le Camere. Adesso spetta darsi un programma secondo le priorità e la prospettiva temporale che riterrà opportune. E la condizione è dunque una sola: fare i conti con la realtà delle forze in campo nel Parlamento da poco eletto, sapendo quali prove aspettino il governo e quali siano le esigenze e l'interesse generale del Paese. Sulla base dei risultati elettorali, di cui non si può non prendere atto, piacciano oppur no, non c'è partito o coalizione, omogenea o presunta tale, che abbia chiesto voti per governare e ne abbia avuti a sufficienza per poterlo fare con le sole sue forze. Qualunque prospettiva si sia presentata agli elettori o qualunque patto, se si preferisce questa espressione, si sia stretto con i propri elettori, non si possono non fare i conti con i risultati complessivi delle elezioni. Essi indicano tassativamente la necessità di intese tra forze diverse per far nascere e per far vivere un governo oggi in Italia, non trascurando su un altro piano l'esigenza di intese più ampie, e cioè anche tra maggioranza e opposizione, per dare soluzioni condivise a problemi di comune responsabilità istituzionale. D'altronde, non c'è oggi in Europa nessun paese di consolidata tradizione democratica governato da un solo partito, nemmeno più il Regno Unito, operando dovunque governi formati o almeno sostenuti da più partiti, tra loro affini o abitualmente distanti e perfino aspramente concorrenti. Il fatto che in Italia si sia diffusa una sorta di orrore per ogni ipotesi di intese, alleanze, mediazioni, convergenze tra forze politiche diverse è segno di una regressione, di un diffondersi di un diffondersi dell'idea che si possa fare politica senza conoscere o riconoscere le complesse problematiche del governare la cosa pubblica e le implicazioni che ne discendono in termini appunto di mediazioni, intese, alleanze politiche. O forse tutto questo è più concretamente il riflesso di un paio di decenni di contrapposizione fino allo smarrimento dell'idea stessa di convivenza civile, come non mai faziosa e aggressiva, di totale incomunicabilità tra schieramenti politici concorrenti. Lo dicevo già 7 anni fa in quest'Aula, nella medesima occasione di oggi, auspicando che fosse finalmente vicino il tempo della maturità per la democrazia dell'alternanza, che significa anche il tempo della maturità per la ricerca di soluzioni di governo condivise quando se ne imponga la necessità. Altrimenti si dovrebbe prendere atto dell'ingovernabilità almeno nella legislatura appena iniziata. Ma non è per prendere atto di questo che ho accolto l'invito a prestare di nuovo giuramento come Presidente della Repubblica. L'ho accolto anche perché l'Italia si desse nei prossimi giorni il governo di cui ha bisogno, e farò a tal fine ciò che mi compete, non andando oltre i limiti del mio ruolo costituzionale, fungendo tutt'al più, per usare un'espressione di scuola, da fattore di coagulazione. Ma tutte le forze politiche si prendano con realismo le loro responsabilità. Era questa la posta implicita dell'appello rivoltomi 2 giorni or sono. Mi accingo, signora Presidente, al mio secondo mandato senza illusioni e tantomeno pretese di amplificazione salvifica delle mie funzioni. Eserciterò piuttosto con accresciuto senso del limite, oltre che con immutata imparzialità, quelle che la Costituzione mi attribuisce, e lo farò fino a quando la situazione del Paese e delle istituzioni me lo suggerirà e comunque le forze me lo consentiranno. Inizia oggi per me Inizia oggi per me questo non previsto ulteriore impegno pubblico in una fase di vita già molto avanzata. Inizia per voi un lungo cammino da percorrere con passione, con rigore, con umiltà. Non vi mancherà il mio incitamento e il mio augurio. Viva il Parlamento, viva la Repubblica, viva l'Italia. E si conclude con questo augurio l'intervento durato oltre 35 minuti da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, appunto rieletto. Ce n'è parecchio, qualche ascoltatore ha scritto ma molta retorica, no, a mia memoria personale è uno degli interventi più forti, più duri mai pronunciati da un Presidente della Repubblica a Camere Riunite, anche perché non dimentichiamoci che di solito questi interventi sono interventi di carattere in primo luogo istituzionale, in cui il Presidente ringrazia, fa auspici alla nazione. Qui Napolitano è sceso nel dettaglio e devo dire una cosa, poi andiamo in pubblicità e ripartiamo con la programmazione, metto pubblicità e i commenti. Poche volte mi era successo di assistere a un Parlamento che viene schiaffeggiato in continuazione dal Presidente della Repubblica e applaude agli schiaffi che riceve, perché probabilmente la logica è si riferisce a qualcun altro. Napolitano ha criticato, poi ascolteremo anche i vari passaggi, in maniera nettissima il motivo, spiegando il motivo per cui ha accettato. Ha detto: io ho accettato, ma voi sappiate che cosa ci ha portato in questa situazione. Ha detto infatti: non prevedevo di essere eletto. Il bis è avvenuto perché i tempi sono eccezionali, ci sono state forze politiche sterili e minimaliste, e giù applausi, che hanno, si sono bloccate per tatticismi e convenienze, e giù applausi. Ha definito imperdonabile la mancata riforma elettorale dopo che l'ho chiesta per 7 anni, e ne ha spiegato poi i motivi, e poi ha anche definito imperdonabile il fatto di non essere riuscito a riformare il Parlamento, e giù applausi. Ha criticato chi vuole mettere la piazza contro il Parlamento o la rete contro la politica, contro i partiti, e giù applausi. È anche avvisato, dal, criticando i politici precedenti, dai fenomeni e le derive a cui può portare l'antipolitica, e giù applausi. Allora, meteo, pubblicità e poi commentiamo questo intervento, ripeto, molto molto duro, anche perché in un passaggio il Presidente della Repubblica ha detto sostanzialmente: attenzione, se il mio invito non verrà accolto, se la vostra reazione sarà sorda, se non ricordo male, ne trarrò le se le forze politiche saranno sorde, prenderò i provvedimenti di fronte al Paese. Ha chiarito nell'ultimo passaggio di non aver accettato la riconferma solo per poi sciogliere il Parlamento e andare a nuove elezioni. Ha invitato le forze politiche a prendere atto di quello che è l'esito elettorale. Non c'è nessun partito che possa governare da solo, nessuno ha vinto realmente, e quindi l'invito era a formare una coalizione il più possibile allargata. Ha detto: siamo in uno stallo fatale della nostra storia per la sordità delle forze politiche, se ci sarà ancora ne trarrò le conseguenze davanti al Paese. E questo è uno dei passaggi più duri. L'ovazione principale e l'applauso principale si è avuto quando Napolitano ha elogiato il lavoro di tutti gli uomini che servono le nostre istituzioni, militari all'estero ma non solo, forze dell'ordine. Quasi è sembrato a volerli contrapporre, perlomeno indirettamente, allo stallo, alla inazione, alla paralisi registrata dalla politica nel Parlamento in questi anni. ...17:47, da pochi minuti è terminato il discorso alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Allora, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. A caldo, a caldissimo, ho fatto una breve sintesi, il titolo è: se fossi un giornale satirico li prendo a schiaffi e loro applaudono, perché adesso io capisco tutto. È dovuto intervenire anche il Presidente della Repubblica a dire: attenzione, con questo applauso che mi date mentre vi critico, mentre critico la vostra incapacità di aver fatto le riforme, l'essere rimasti bloccati da tatticismi e convenienze, che avete avuto, le vostre convenienze, tatticismi e strumentalismi hanno condannato alla sterilità i confronti delle vostre forze politiche, loro applaudivano e a un certo momento il presidente ha detto: attenzione, con questo applauso non pensate di autoassolvervi, cioè siamo arrivati veramente, no? Sì, io ho contato 30 applausi, compreso l'ultimo, quello finale, quando il presidente si è alzato ed è uscito dall'aula, e effettivamente è così, cioè è paradossale che un Parlamento abbia applaudito tantissimo il Presidente della Repubblica quando questi ha fatto un discorso molto severo e molto duro, riportando, diciamo, a una lezione di realismo questo Parlamento. Sì, io non ricordo discorsi, chiaramente era un discorso di investitura un po' particolare, anzi eccezionale, come lui stesso ha ricordato. La Costituzione prevede, non esclude una riconferma, ma perché ha lasciato una finestra per momenti eccezionali come che è quello che stiamo vivendo. E quindi andiamo con ordine. Napolitano ha ringraziato per l'ampia maggioranza con cui è stato votato, come si dice in inglese, yes but, grazie ma, e poi è partito con una raffica di bacchettate che, faccio notare, hanno coinvolto i partiti storici, PD, PDL, centristi, ma anche in più di un passaggio il Movimento 5 Stelle, perché io ho visto dei passaggi in cui lui diceva: attenzione, da un lato la politica ha imboccato e si è infiato in un vicolo cieco, sterile e minimalista, dall'altro però attenzione a cavalcare l'antipolitica come soluzione. E poi in un altro passaggio, che la rete, intesa come internet, e la piazza non vengono messe in contrapposizione ai partiti storici, sono due cose che convivono assieme. Guido? Sì, ha detto no alla piazza contro il Parlamento e no alla rete contro i partiti, ha aggiunto capaci di rinnovarsi. E ha toccato direttamente, esplicitamente, il tema della grande novità di queste elezioni del 25 febbraio, che è quello del Movimento 5 Stelle. Gli ha dato atto, diciamo, di essere un'effettiva novità e di aver svolto anche nelle prime mosse, in Parlamento un ruolo positivo, ma gli ha anche detto, appunto, che deve ancorarsi a quella che è la realtà del Parlamento e allo sviluppo del dibattito nel Parlamento, non si deve avere paura di fare delle intese per raggiungere, la governabilità. E su questo è stato molto molto chiaro, durissimo con i partiti storici, che lo hanno, appunto, come dicevamo, applaudito, e mi pare che abbia delineato, per quanto riguarda quella che è la prospettiva del governo, che è la cosa che più ci interessa adesso in questa fase, abbia delineato un governo che abbia chiaramente una maggioranza alla Camera e al Senato, che quindi abbia i numeri per poter governare, e quindi auspicando sostanzialmente un governo di larghe intese. Vabbè, questo era chiarissimo. Ha detto: prendete atto nella parte finale che nessuno di voi ha vinto le elezioni, io traduco, nessuno di voi è in grado di formare un governo autonomo. Tra l'altro, ha aggiunto il Presidente della Repubblica, in nessun paese europeo esiste un unico partito che governi, nemmeno in Gran Bretagna, quindi poche storie, trovate un modo per mettervi d'accordo e formare una coalizione di governo, tanto da soli non ce la fate. E poi c'è un passaggio importantissimo, a mio avviso, nel finale, Guido, quando ha detto: attenzione, io non ho, nonostante avessi detto che non volevo più fare Presidente della Repubblica, non ho accettato semplicemente per portare il paese alle elezioni, per sciogliere le Camere, userò tutti gli strumenti in mio potere. Allora, devo dire che, ripeto, la notizia per me è l'applauso che dimostra l'impazzimento della maionese, Guido, perché insomma, sì, cioè, uno può nella vita, può anche stare, quando ti criticano, non è che dici bravo, uno può anche stare zitto e dire, capire che il Presidente della Repubblica, mettiamola giù in maniera un po' informale, è molto seccato, intanto perché aveva detto che non avrebbe accettato nessuna riconferma, in secondo luogo, scusatemi, perché ha fatto notare ai partiti, quelli di prima, cioè quelli preelettorali, quindi PD e PDL in primo luogo, quante volte lui abbia insistito per fargli fare la riforma elettorale. Ha detto, c'è un passaggio in cui ha detto: ho messo in pratica imperdonabile, anche perché ho messo in pratica tutte le possibilità a mia disposizione per convincervi a fare la riforma della legge elettorale, criticatissima, perché citando la Costituzione lui dice: ha un premio di maggioranza assurdo, per cui con uno 0,1% tu governi, ma poi si capisce che non rispecchi il paese, traduco, e non aver fatto la riforma del Parlamento. Andiamo con ordine, Guido, però partiamo dall'inizio. Lui, dopo aver ringraziato e aver detto il mio risultato, la mia riconferma è un segno di debolezza di un momento eccezionale, è sembrato estremamente diciamo, seccato, forse sopra ogni previsione, le bacchettate ai partiti, Guido. Sì, è stato molto, molto duro, molto severo su questo punto. E a me colpisce, anche a me la cosa che più ha colpito sono stati questi lunghissimi applausi, questi 30 applausi, e purtroppo bisogna, diciamo, rimanendo nel solco di quello che ha detto il Presidente, quindi di fare i conti con la realtà, si è richiamato più volte a questo concetto, dobbiamo fare anche noi i conti con la realtà, diciamo, per quanto riguarda le prospettive future, perché tutti questi applausi in realtà contraddicono quello che per esempio è accaduto già nella giornata di ieri, e cioè con il riproporsi di una serie di veti incrociati per quanto riguarda la formazione del nuovo governo. Quindi adesso inizia una fase molto delicata, e voglio ricordare che solo un paio di giorni fa, tre giorni fa, quando c'è stato un episodio, diciamo, parziale, quando è stato investito l'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi per l'elezione della Presidenza della Repubblica, il PD, c'è stata una standing ovation, c'è stato un applauso che è durato moltissimo. In realtà poi abbiamo visto al momento del voto 101 franchi tiratori, quindi la situazione è quella che ha descritto Napolitano, ed è una situazione di allarme e di forte contrapposizione tra i partiti e dentro i partiti, in particolare nel PD. Quindi è una situazione ancora, secondo me, di allarme, di tempi eccezionali, come lui li ha chiamati. Io spero che l'abbiano capito, perché a me, insomma, l'applauso di quello che applaude pensando che si parli del vicino di banco mi lascia un po' perplesso. Però chiedono alcuni ascoltatori, sì, vabbè, però tante parole, ma poi, beh, attenzione, il Presidente della Repubblica non è un governo del Presidente, non è una Repubblica presidenziale questa, però quando il Presidente della Repubblica dice che è stufo del modo in cui, tra virgolette, è stato quasi preso in giro, nel senso che lui ha insistito per anni, le riforme i partiti non le hanno volute fare, sì, nulla di fatto, per tatticismi strumentalità, lentezze e contrapposizioni. Esatto, e convenienze di breve periodo. Sì. Poi, traduco io, siete venuti a chi avete visto come sono state le elezioni, che la cui, diciamo, il movimento di Grillo è stato alimentato, lo ha detto chiaramente Napolitano, dalla vostra incapacità di dare risposte. E poi non siete nemmeno riusciti a trovare un Presidente della Repubblica, e venite da me in ginocchio, aggiungo io, questo non l'ha detto lui, a chiedermi di restare. E mo però vi dico cosa penso di quello della vostra incapacità. Per rispondere all'ascoltatore però, Guido, in realtà non è che il Presidente della Repubblica non abbia paventato minacce all'interno di quello che è il suo potere e il dettato costituzionale? Ma lui sostanzialmente ha detto a un certo punto... Ha detto, se voi continuate su questa strada, io ne prenderò atto. E questo significa la possibilità che lui ha da oggi in poi di poter ricorrere di nuovo allo strumento dello scioglimento delle Camere. Ma nel suo finale del discorso ha anche aggiunto, io farò di tutto, perché non sono, diciamo, non ho accettato questa rielezione per andare direttamente allo scioglimento delle Camere, quindi io farò di tutto nell'ambito dei poteri che mi concede la Costituzione per evitare questa scelta. E quindi io credo che questo è un po' il punto forte, diciamo, politico finale dell'intervento di Napolitano. Sì. Si muoverà lui con grande determinazione. Sono andati col cappello in mano a sto punto. Esatto. No? E quindi devono adeguarsi. Speriamo che lo capiscano, però. Ecco, perché alcuni ascoltatori scrivono: ma in realtà hanno applaudito quasi come sfottò, ma sì, applaudiamo, ma tanto tu parla, che poi decidiamo noi. Io mi auguro che non sia così, perché sarebbe. Speriamo che non sia così. Quanto è accaduto qui nei giorni scorsi ha rappresentato il punto di arrivo di una lunga serie di omissioni e di guasti, di chiusure e di irresponsabilità. Ne propongo una rapida sintesi, una sommaria rassegna. Negli ultimi anni, a esigenze fondate e domande pressanti di riforma delle istituzioni e di rinnovamento della politica e dei partiti, che si sono intrecciate con un'acuta crisi finanziaria, con una pesante recessione, con un crescente malessere sociale, non si sono date soluzioni soddisfacenti. Hanno finito per prevalere contrapposizioni, lentezze, esitazioni circa le scelte da compiere, calcoli di convenienza, tatticismi e strumentalismi. Ecco che cosa ha condannato alla sterilità o ad esiti minimalistici i confronti tra le forze politiche e i dibattiti in Parlamento. Quel tanto di correttivo e innovativo che si riusciva a fare nel senso della riduzione dei costi della politica, della trasparenza e della moralità nella vita pubblica è stato dunque facilmente ignorato o svalutato. E l'insoddisfazione e la protesta verso la politica, i partiti, il Parlamento sono state con facilità, ma anche con molta leggerezza, alimentate e ingigantite da campagne di opinione demolitorie, da rappresentazioni unilaterali e indiscriminate in senso distruttivo del mondo dei politici, delle organizzazioni e delle istituzioni in cui essi si muovono. E questo forse è il passaggio, uno dei passaggi principali dell'intervento, del discorso del Presidente della Repubblica a Camere Riunite. Abbiamo levato volutamente alcuni applausi perché almeno a noi sembravano fuori luogo. Nel momento in cui vieni bacchettato, applaudire sembra quasi dare ragione in un modo non elegante. Devo dire che poi in questo passaggio c'è la critica sia al modo in cui hanno proceduto i partiti storici di questo paese, Guido Gentili di nuovo in diretta con noi, che la critica anche a alcuni movimenti, io dice visto 5 Stelle, dove con troppa facilità si è attaccata la politica tout court, la politica in toto. Guido. Sì, questo è stato uno dei passaggi più duri e al momento in cui è scattato l'applauso, lui poi ha detto questo applauso però non abbia le caratteristiche dell'auto indulgenza. E lo ha riferito non solo a quelli che ha chiamato i corresponsabili del diffondersi della corruzione nelle varie sfere della politica, ma anche per quelli che sono stati responsabili del blocco sostanziale nel campo delle riforme. Quindi è stata una requisitoria molto dura nel confronto delle vecchie forze politiche e poi, come tu ricordavi, anche ovviamente la lettura era chiara nei confronti del Movimento 5 Stelle di Grillo. Allora, vedo che molti ascoltatori concordano sul fatto che insomma applaudire quando hai un Presidente della Repubblica che ti ricorda le tue incapacità, vedo anche dichiarazioni di vari segretari, Bersani ottimo, ha detto quello che bisognava dire, sì, ho capito. Qualcuno non ha fatto quello che bisognava fare, aggiungere io una battuta. È stato peraltro durissimo, non lo ha ovviamente citato, ma è stato durissimo dicendo che non ha saputo trarre lezione da quello che era l'esito del voto e ha saputo gestire una straordinaria maggioranza, no? E quando dice insomma i partiti dovevano capire che con questo risultato elettorale che si rispetta come qualunque risultato non c'era un unico partito che poteva governare. Vorrei un ultimo commento da te riguardo alle prospettive, ce lo chiedono anche gli ascoltatori. E quindi la parte finale dell'intervento del Presidente della Repubblica che riguarda, dico per inciso, anche i mercati che oggi hanno festeggiato Milano, la borsa che cresce di più in assoluto, poi ci arriviamo. Allora lui ha detto: io non ho accettato l'incarico solo per sciogliere le Camere, però, scusatemi, allo stesso tempo ha anche detto se le forze politiche resteranno sorde a questi miei inviti a fare le riforme subito ne prenderò atto, cosa vuol dire questo secondo te? Secondo me vuol dire che lui, come ha spiegato bene alla fine dell'intervento, non ha accettato la rielezione per andare direttamente allo scioglimento delle Camere, quindi farà di tutto per evitare questa prospettiva. Detto questo, però, è un'arma che lui oggi ha di nuovo a disposizione, proprio quello dello scioglimento delle Camere, quindi ne prenderò atto se voi non troverete gli accordi, e ovviamente ha fatto riferimento anche a questa possibilità. E questo, diciamo, è un richiamo ancora più forte alle forze politiche perché raggiungono un'intesa che ha caldeggiato con parole molto molto chiare, nel senso di trovare una maggioranza la più larga possibile, che consenta di avere al governo soprattutto, e lo ha detto anche questo con molta chiarezza, una maggioranza al Senato. Sì. Un'ultima battuta, Guido. Napolitano ha detto: io mi sto muovendo nell'alveo della Costituzione, è inutile che inventiate formule varie, il governo del Presidente e quant'altro, però possiamo dire che con questo intervento, diciamo, non è il governo del Presidente, ma ci andiamo vicini? Ma io direi che con tutto, diciamo, come è venuta a maturare questa situazione nel momento in cui le forze politiche incapaci di trovare un'intesa sono andate al Quirinale per chiedere la rielezione del presidente Napolitano, siamo entrati di fatto in una fase nuova. Qualcuno, diciamo, ha scomodato il termine presidenzialismo, ma insomma ci siamo, diciamo, abbastanza vicini, ripeto, nei fatti, e quindi questo è uno dei temi forti che noi avremo davanti in prospettiva, come, diciamo, aggiornare anche forse nella forma quella che è ormai una realtà di fatto. Questo mi sembra un altro spunto interessante per i prossimi mesi. Allora, nel ringraziare Guido Gentili, io dico una cosa ad altri ascoltatori, ma guardate, insomma, a me della, per carità, la Presidenza della Repubblica ha dovuto dire attenzione all'antipolitica, ha anche parlato di tensioni sociali, di rischio di eversione, vorrei ritrovare la frase esatta, bisogna stare attenti a nuove pulsioni eversive. E doveva dirlo. A me vedo molti messaggi che dicono: ma insomma, la contestazione dei politici in questi giorni di fronte al Parlamento. Ma guardate, insomma, è chiaro, la contestazione deve essere pacifica. A me quello che preoccupa e dispiace, se devo dirla tutta, è leggere anche oggi di nuovi suicidi tra gli imprenditori. No, questo è il paese, purtroppo, che dobbiamo raccontare, anche questo è il paese che dobbiamo raccontare ogni giorno, le 130.000 imprese che sono scomparse e quant'altro. Poi, voglio dire, se uno si becca qualche fischio, che resti un fischio, e qualche contestazione, e fa il politico, non ha fatto una niente, no, non avete riformato la legge elettorale convinti di vincere da una parte o dall'altra, e qualche fischio ci può stare. Le preoccupazioni, i drammi veri sono altri. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di questa puntata particolare di Focus Economia. A chi ci chiede, a chi ce lo chiede, ricordo che l'intero intervento, discorso del Presidente della Repubblica Napolitano è disponibile sul sito internet di Radio 24, quindi lo trovate nel nostro sito internet. La borsa la faccio io velocemente. Allora, abbiamo già da stamattina detto che tutti gli investitori vedevano con favore la riconferma di Napolitano, più 1,66% in Milano, pensate, Parigi 0, è invariata, chiuso invariata, Francoforte più 0,24, Londra meno 0,10, l'America meno 0,20, quindi Milano fa storia a sé, lo spread è sceso e adesso ne parliamo, è sceso a livelli anche interessanti, è sceso anche quello spagnolo. Cito solo velocemente i titoli: generali più 5%, Mediaset più 5, A2A più 4,90, Banco Popolare più 4,40 come Ubibanca, il 4% Mediolanum, il 3,20 la Popolare di Milano, il 2,70 Enel e Unicredit, ma anche Exor, il 2,20 lo guadagna Atlantia, il 2% il rialzo di Tenaris e della Popolare Emilia Romagna, ma anche di Mediobanca. Chiudiamo con Intesa San Paolo, Buzzi, Unicem e Fiat che guadagnano l'1,70%, perde invece Prismian il 2,30, Fiat Industrial l'1,80, Telecom Italia meno 1,80 per 100 euro a quota 1,30 e 52. Ancora, per quello che riguarda i migliori e i peggiori in assoluto, Enertronica più 11%, Philips più 5,32%. Questa è la borsa. La vera notizia però è appunto lo spread e come la riconferma per la prima volta nella storia della Repubblica di Giorgio Napolitano sia stata accolta dagli investitori di tutto il mondo, e lo si è visto su tutti i mercati. Sì, parliamo della reazione dei mercati in generale, non solo delle borse, perché uno potrebbe dire che, insomma, la situazione dell'Italia da fuori è vista così passatemi il termine, incasinata, così confusa, così d'impasse, che anche la riconferma del Presidente della Repubblica viene vista come una notizia eccellente, dimenticando tra virgolette che manca ancora un governo, un Presidente del Consiglio e una roadmap, una mappa di riforme per poi sapere dove andremo a finire, se si andrà a elezioni tra un anno come chiedono alcuni oppure no. Però insomma, oggi i mercati in generale hanno festeggiato come se dall'Italia fosse arrivata la notizia di un governo stabile di riforme per i prossimi 5 anni. Lo spread è sceso prima a 285 punti, poi sotto i 280 a 279, quindi il termometro che misura il rischio del debito del paese rispetto al rischio che viene misurato in Germania. Questo è lo spread. E JP Morgan, una delle principali banche d'affari americane, in una nota pubblicata oggi invita a tornare ad investire sui paesi periferici dell'area euro e specialmente in Italia, spiegando che la rielezione del Presidente della Repubblica Napolitano allontanerebbe il rischio immediato di elezioni anticipate e aprirebbe le porte a un governo di larga coalizione, tant'è che JP Morgan si spinge a prevedere entro giugno uno spread a 250 punti, che vorrebbe dire tornare ai livelli precedenti l'attacco all'Italia, alla Spagna, quindi precedenti al giugno del 2011. Vorrei sapere se condivide questo cauto ottimismo, questo ottimismo in generale, che ha contagiato, come ricordavamo, in maniera positiva anche la Spagna, perché anche la Spagna ha visto calare il suo spread dai minimi da fine del 2010, ossia la differenza tra un BTP a 10 anni spagnolo e un BTP a 10 anni tedesco è scesa a 324 punti e il rendimento di un BTP spagnolo è al 4,51%, quello italiano per inciso è al 4,07%. Ecco, vorrei sapere il perché anche se viene condiviso questo cauto ottimismo con chi segue tutte le strategie sul credito, quindi anche sul debito dei paesi. Per Royal Bank of Scotland, da Londra, dottor Alberto Gallo, buonasera. Buonasera. Lei è responsabile di tutta la parte europea, quella che voi chiamate credit strategy. Allora, festeggiate perché diciamo nell'impasse, nel vuoto pneumatico, anche questa diventa una grande notizia? Beh, noi eravamo in realtà già posizionati in positivo sulla periferia, sul Portogallo, sulla Spagna e sull'Italia un po' meno, ma la paura che c'era tra gli investitori era di avere elezioni prima dell'estate. Noi in realtà, come abbiamo detto negli ultimi mesi, eravamo sì preoccupati di un periodo di instabilità, però non abbiamo mai guardato alle elezioni così presto, e realisticamente le elezioni le abbiamo sempre viste verso fine anno, il che vuol dire che nel frattempo ci si può posizionare sulla curva italiana dei bond. In realtà questo potenziale per un governo di grande coalizione potrebbe spingere la possibilità di nuove elezioni o verso fine anno o anche oltre, ed è questo che il mercato vede in senso positivo. È comunque un passo in avanti rispetto ad avere a non avere un governo. Sarà un momento chiave questo per vedere se il governo di grande coalizione, se si riuscirà a farlo, e se questo governo riuscirà a fare le riforme di cui c'è bisogno per ristrutturare il mercato del lavoro, per esempio, o aiutare le piccole e medie imprese che non riescono ad avere finanziamenti. E su questo anche l'ECB, la BCE, si sta muovendo in un certo senso, come abbiamo visto dalle dichiarazioni di alcuni membri la settimana scorsa. Secondo me, secondo anche gli investitori, il passaggio da una situazione di stallo a una situazione in cui c'è un governo permetterà qualche passo avanti sulle riforme e potenzialmente potrebbe aprire la strada anche a qualche azione della BCE per aiutare le piccole e medie imprese. Però poi ci vuole un orientamento forte del governo per continuare le riforme, non soltanto per mantenere una situazione apparentemente stabile. I problemi devono essere trattati subito per non farli peggiorare. Ok, questo è chiaro. Faccio notare, sì, per inciso è vero che Spagna e Italia hanno più difficoltà a fare anche le riforme, è tipico dei grandi paesi, ha ragione lei, vedremo se toccherà la Francia, auguri, perché i francesi sono ancora più resistenti di noi, per alcuni versi. Mi dica una cosa, a questo punto il vostro posizionamento però da qua a fine anno, come, cioè, anche voi ritenete come JP Morgan che lo spread potrebbe scendere fino a 250 punti o giù di lì entro giugno? Noi sui paesi, sull'Irlanda, sul Portogallo, Spagna e l'Italia siamo stati investiti già dall'anno scorso. Cioè siete siamo investiti? Lunghi, sì. Ci siamo posizionati intorno alle elezioni in modo corto perché vedevamo una probabilità di instabilità politica. Però è stato un trade, diciamo, tattico che abbiamo tenuto per un paio di mesi. In generale la nostra opinione è positiva, non soltanto perché ci sono dei passi in avanti dal punto di vista politico, anche per gli interventi della BCE e delle banche centrali mondiali che stanno iniettando liquidità nel sistema. E su quei, a partire da Bank of Japan, esatto. Come, la banca giapponese, che è quella che ci sta aiutando, diciamolo tutto, perché... esatto. Perché stanno comprando molto il debito anche europeo e quindi anche italiano. Mi dico un'ultima cosa però, Gallo, quando lei dice noi ci siamo posizionati, lei ha fatto capire che insomma siete investiti già sull'Italia e siete tornati a investire, secondo lei però l'ipotesi dell'attacco all'euro che abbiamo visto tra diciamo, metà giugno e inizio 2012 nella parte più virulente, e poi anche, mi riferisco allo spread, anche a metà del 2012, è definitivamente tramontata con lo scudo che ha messo in piedi Mario Draghi, cioè l'OMT? Secondo noi potrebbe tornare una situazione del genere solo in caso di incertezza politica molto forte. Lo scudo della BCE in effetti richiede che ci sia un governo nei paesi che lo richiedono, che devono chiedere aiuto, e quindi in mancanza di un governo o in una situazione politica di incertezza potrebbe venire a mancare. Per ora ci sono dei governi stabili in tutti i paesi del sud Europa, in Italia si sta creando potenzialmente un governo stabile. Se per esempio ci fossero elezioni a fine anno oppure all'inizio dell'anno prossimo con un risultato frammentato come quello che abbiamo avuto a febbraio, allora potrebbe tornare una certa volatilità sul mercato, però questo è almeno fra sei mesi e sì. Quindi essere non investiti nel sud Europa dove ci sono alcune delle obbligazioni che rendono di più non conviene mantenere una posizione positiva sì. Almeno fino a fine di quest'anno. Beh, grazie e buon lavoro al responsabile europeo per le credit strategies di Royal Bank of Scotland, Alberto Gallo, in collegamento con Londra. La ringrazio e buona serata. Sì, nel salutarvi sono d'accordo con molti ascoltatori, parlare di periferia per l'Italia, insomma, così, un linguaggio un po' da finanza. Detto questo, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per commentare di nuovo le reazioni dei mercati, ripeto oggi più che positive, ma soprattutto capire quando arriverà anche un governo e commentare dati sull'economia reale, quello a cui faceva riferimento il Presidente della Repubblica quando ha parlato anche dei suicidi, e cioè la chiusura delle imprese. I dati che arrivano al mondo dell'artigianato sono drammatici, magari questa voce potrebbe arrivare anche a Roma. Nell'augurarvi buona serata, non mi resta che dire lunga vita al Presidente della Repubblica, perché insomma, vista la situazione, ce n'è bisogno e glielo augureremo comunque. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.